il me accolte inerme qui. O pitar mia vendetta fermi. Ma passame, viva beltà, per lei mal parte, viva il cor. Ed io di preferirei, tra condotta al macchinale, e vieni il tuo poter, e il rire inerme a me. Io laggiù qual raggio manda il quarto là. Nel teco il guardo un lampo così lieto ride al mirar. Quella luce mette in fiamme colà la viva beltà del fulgor che a te dietro lasciò e libertà nostra. Arbe l'antico.